siamo riusciti ad avere una corrispondenza al volo, dici? Va bene, grazie mille, allora ci risentiamo fra un poco, grazie mille.